Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. È lieta di darvi il benvenuto alla presentazione di questa sera del saggio Se l'amore ferisce, scritto a due mani, credo, da Giuseppe Quattro, Giuseppe Maioli e Giuliana Franchini, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto dare un contributo anche noi, affrontando un tema molto sentito e problematico e purtroppo familiare a tutti. Abbiamo, come di consueto, allestito una piccola vetrina con una scelta di saggi legati all'argomento. Per una scelta più ampia, naturalmente, vi invitiamo a passare in biblioteca in via Medola 5. Non mi resta che dare la parola ai nostri ospiti e augurarvi buon ascolto e una buona serata. Grazie. Buonasera a tutte e a tutte e a tutti, visto che siamo in larga maggioranza femminile, però la presenza dei nostri compagni, degli uomini, è sicuramente gradita. In queste situazioni, magari in queste situazioni, siamo più sensibili alla partecipazione noi donne. Sono Marina Bruccoleri, sono pedagogista. Lavoro da 26 anni all'associazione La Strada del Reg e ho l'onore di facilitare questa presentazione del saggio della dottoressa Franchini e del dottor Maiolo. Onore perché? Perché ci sono certi incontri nella vita che ti segnano. Il dolore fa parte dell'essere umano. Qui però viene descritto in modo molto profondo, in modo molto delicato, quello delle donne. Questo libro io l'ho letto durante un viaggio verso il mare. Scappavo da Bolzano, dal tran tran, dalla routine, e mi ci sono tuffata. Sono 8 bellissime storie di donne, scritte da un uomo e da una donna. Perché metto prima l'uomo? Perché mi ha colpito, perché questo libro a 4 mani sembra scritto a 2 mani, sembra scritto da una persona sola. Mi ha colpito questa fusione tra maschile e femminile, o forse il pregiudizio che ho io tra maschile e femminile, e mi ha colpito l'unione del linguaggio, della poesia e della profondità che accompagna tutte queste 8 storie. Sono storie di donne, di figlie, di madri, di compagne, sono storie di amore, di ferite. E l'ho letto prima come essere umano, come donna, prima che come operatrice. Si parla di dolore, di silenzio, di solitudine, di affronto, di ferite, di ruoli, figlie, madri, compagne, mogli. Si parla delle emozioni congelate per fronteggiare il dolore, si parla di abbandono, di tradimento, di lutto, di colpa, ma si parla anche di cura dell'anima. Io penso che gli autori che ho anche l'onore e la fortuna di conoscere personalmente siano dei curatori dell'anima, perché questa parte rispetto al passaggio, alla scelta di cambiare, di mettersi in gioco, di uscire da una situazione dolorosa, da una situazione che ci imprigiona e da cui non riusciamo a cambiare, emerge in un modo delicatissimo, in un modo rispettosissimo, con una grande sensibilità e una grande attenzione. Queste sono le mie impressioni. Ecco, i temi ve li ho un attimo riassunti, quello che ha colpito me. Mi piacerebbe che ci fosse anche un dibattito, perché rispetto, ripeto, il dolore ci appartiene come esseri umani. Qui il dolore femminile al femminile è il tema. E come esiste il dolore, esiste anche il passaggio per uscire. Questo è quello che ho colto da queste 8 storie di donne. E di cui si cura tutto dell'arma. Per cui l'idea nostra, appunto, di creare un dibattito su questo, se poi il dottor Maiolo, la dottoressa Franchini. Pensavamo magari di iniziare innanzitutto una sera, perché sono sempre molto colpita dal fatto di trovare le persone che conosco e anche quelle che conosco non da tempo. Questo mi fa molto, sempre molto piacere. Qualcuno diceva anche su un luogo lontano, giustamente, no? Se voglia di vedere qualcuno che non sia da tempo. Pensavamo, cioè, normalmente quando facciamo le nostre presentazioni, prima legge qualcosa dei pezzettini e poi commentiamo un po' la nostra storia e del perché siamo arrivati a scrivere questo libro, che non è stato un libro facile, anzi personalmente è stato un libro molto complicato e difficile, anche se per me era assolutamente terapeutico scriverlo, un po' per uscire da quelle storie, un po' per salutarle e un po' anche per farle andare nel mondo. È stato anche, se volete, un po' un meccanismo logistico che mi è servito. Sì, allora anche da parte mia, buonasera, ben trovati, vi ringrazio di essere presenti qui per poter, come dire, effettivamente scambiarci delle impressioni, altrimenti io trovo che questi anniversari, se non sono un'occasione per parlare, per confrontarsi, per discutere su quello che vogliono ricordare, questi anniversari non servono. Adesso hanno riempito tutto l'anno di questi anniversari, a volte ci sono due ricorrenze nello stesso giorno, ecco. Quindi serve, secondo me, solo se possiamo trovare il tempo per parlarne. E io dico anche che serve, ecco, questo fatto di leggere insieme o di narrare insieme. In effetti, un po' non voglio correggere, però è stato presentato questo lavoro che abbiamo fatto, Giuliana ed io, come un saggio. No, è una narrazione, è un libro di narrazione. E quindi questo credo che sia importante sottolinearlo, ma proprio per farvi vedere che è una narrazione, ve ne leggo intanto un pezzo introduttivo, anche per darvi l'idea che di violenze ce ne sono tante e di diverso tipo. Questa, di cui vi accenno, è un breve passo di uno di questi racconti, è un tipo di violenza che abbiamo incontrato. Non avevo ancora 4 anni quando mia madre si infilava nel mio letto, non per coccolarmi, ma per scappare e mettersi in salvo da suo marito. Ne avevo qualcuno in più quando imparai ad arrestarle il sangue dal naso ogni volta che lui la picchiava senza ragione. Percepivo il colpo come un rumore secco e subito dopo il grido strozzato di mia madre che cercava riparo. Non la odiava, ma ricordo di aver pensato più volte che non sapesse che farsene di lei. La sentiva ingombrante, un giorno mi disse, senza rabbia, prima o poi la faccio fuori, tua madre. E mimò alle spalle il gesto con la lama di un coltello. Poi mi sorrise con un'occhiata complice. Più della sua violenza mi feriva la sottomissione di mia madre, il suo non ribellarsi, la totale accondiscendenza alla forza con la quale lui la teneva in ostaggio. Giustificavo il suo annullamento con il carico essere io in quanto primogenita a rimpiazzarla nei suoi compiti. Lei piangeva di nascosto e io non lo sopportavo, non accettavo la sua ipocrisia e mi impedì ostinatamente di piangere. Non ho mai pianto per nessuno. Solo le femmine hanno il diritto di piangere, diceva mio padre, e io ho rinunciato a essere femmina per farlo contento, per compensare i suoi vuoti e avere le briciole di quel suo vago amore per me. Il titolo di questa storia è Peccato che tu sia femmina. È una frase che il padre gli dice un giorno mentre vanno a pescare. Pensavo più o meno di Giorgino che le donne quando arrivano non arrivano mai con una storia di violenza. Non c'è mai stato, io mi occupo di donne e di bambini da tanti anni, e non ho mai sentito nessuna donna arrivare, mai visto questa, con questo motivo. Vengo perché vivo con un bambino, vivo una situazione di violenza. Le situazioni di violenza sono spesso nascoste proprio veramente dentro le pieghe dell'anima. E le donne sempre fanno una fatica terribile a narrarla. Vengono perché fanno male alla coppia, vengono perché sono depresse, cercano un terapeuta tantissimi anni, ma mai, quasi mai, per un motivo di violenza. Così anche per lei, lei arriva con un motivo di coppia, ma in realtà la sua storia è questa. Una storia dove si parla non solo di violenza psicologica, ma anche di violenza assistita, un termine che per fortuna adesso sappiamo che cos'è. Sono i bambini che vedono quando un genitore è recuperato, no? Ed è una forma di violenza soprattutto nei bambini, purtroppo sempre al primo momento. Ecco, se avete delle domande fatele subito. Se non subito va più, però se non ho fatto. Sai cosa mi ha colpito di quello che hai detto? Una picchiata senza motivo. Non ci può essere comunque un motivo. No, il tuo picchiare. Però mi ha colpito senza motivo. La sentita il fatto che senza motivo. Sì, mi ha colpito la frase che ha detto: ha picchiato mia madre senza motivo. Quale motivo ci può essere comunque? Già quello mi capisci, senza motivo, quella parola. Non si deve picchiare, appunto. Già chi pensa quello, poverina, dico, cosa aveva nella testa, no? Forse c'è un motivo per picchiare. Non lo so, è così, è niente di importante, però quando l'hai letto è la cosa che mi ha così un po' spaventata. Non è niente di importante, è molto importante invece quello che dici, perché in queste storie noi abbiamo messo le narrazioni, le storie che ci hanno raccontato, e la donna che racconta e di cui noi scriviamo racconta nelle sedute, così appunto cominciamo anche a dare l'idea perché viene fuori questo libro, nelle sedute con me o con Giuliana, poi vi diremo bene meglio come è funzionato questo libro, ha raccontato, e ha raccontato con i suoi occhi da bambina, quella bambina che non capiva perché suo padre picchiava la madre. Quei bambini assistono senza sapere perché. Quello che capiscono alle volte, come è capitato anche a lei, è che sono loro i colpevoli. Che la colpa è loro, è la colpa che loro riescono a individuare. E d'altra parte, se pensate, per moltissimi secoli, no, si è picchiato, soprattutto i bambini, no, e si diceva per il tuo bene, no? Spesso lavorando con i genitori si sente ancora dire questa frase, no? I sistemi duri funzionano, no? Come hanno funzionato con me funzionano anche con i figli. Quindi la violenza come per il tuo bene. Oppure è collegata alla colpa, no? Ti faccio del male perché in qualche modo lo sei meritato, no? Queste due colonne importanti purtroppo sono veicolate da moltissimi anni. il problema penso che sia anche che a un certo punto la bambina che poi diventa donna, se non si ferma e fa un lavoro, se ne convince che questa sia la realtà, che se l'è meritato ed è colpa sua. E questo le preparatrici anche dei centri antiviolenza lo riportano spesso, vedo una presente anche in sala, ciao Mirka, lo vedono spesso questo termine, questa prigione della colpa, del segreto e del meritarsi. Signora, prego. Forse parlo un po' della parte di una che mi sono chiesta tantissime volte, mi fanno una pena davanti a questi bambini per tutti i motivi, si possono fare 100.000 motivi per cui, grazie, per cui fanno pena questi bambini che assistono a queste scene, ma è una cosa che non capisco mai, ma quanto è una parolaccia bruttissima che non la dico mai da dire, l'uomo che fa simili storie, che piglia la donna, che magari piglia la donna, il motivo ce l'ha, eccetera, eccetera, ma mentre i suoi figli, ai quali lui dice di voler bene, assistono. Io questo, quell'uomo gli posso dire, ma è un cretino, è parolacce tantissime, sì perché piglia la moglie, ma perché fa assistere i suoi bambini, ai quali lui dice... c'era un famoso psichiatra, no? Cosa che conosciamo altri anni, che diceva che i manicomi sono pieni, no? Di genitori che hanno voluto bene i loro figli, troppo bene i loro figli, no? Cioè, abbiamo forse un'idea di amore e di bene che andrebbe qualche volta un po' regolata, no? Bisognerebbe un pochino capire cos'è l'amore. Spesso per esempio i bambini che assistono a queste situazioni, e questa volta la difesa dei genitori, non sono presenti, no? I genitori, qualche mamma lo dice, ma si accade, i bambini sono nella stanza accanto, no? Quindi non lo vedono, non lo sentono, non dimentichiamo che i bambini hanno queste antenne radar tremende, no? E così per molti genitori l'idea è che se faccio del male all'altra, usiamo sempre femminile perché sapete, insomma, la maggioranza sono le donne che subiscono, comunque i bambini sono fuori, ma d'altra parte la violenza assistita è entrata nei tribunali come un atto di violenza da pochissimi anni, ma fino a 10 anni fa i giudici dicevano ma il bambino ha dei segni? No, e allora mi dispiace ma possiamo fare nulla, no? Quindi abbiamo moltissimo da fare in tema di cultura dell'infanzia. Se poi voi pensate che gli ultimi dati ISTAT che hanno fatto una ricerca dal 2009 al 2014, sono 5 anni praticamente, sulle donne tra i 16 e i 70 anni, è uscito che il 31,8% mi pare subisce violenza. Quindi sono praticamente tra i 6 milioni e mezzo, 7 milioni di donne in Italia, che è una cifra enorme. Pensate che più della metà hanno dei figli. Io sono vegetariana. Lei è pronta. Complimenti. C'era qualche altra domanda? Direi che abbiamo un altro pezzettino. Un'altra pezzo di storia. Allora, un altro pezzo di storia che così mi serve per darvi un'idea di come nascono questi racconti, questi 8 racconti di donne. Sono appunto storie che noi abbiamo raccolto insieme in sedute terapeutiche. Sono 8 situazioni, ma dentro queste situazioni non ci sono solo 8 donne, non sono 8 le persone che abbiamo seguito per violenza. Solo che a un certo punto, come ha accennato prima Giuliana, abbiamo sentito quasi la necessità non tanto di fare una pubblicazione di casi, chi si occupa di questo settore, di questo tipo di lavoro, ha bisogno continuamente di lavorare sui casi che segui, lavorare nel senso che ha bisogno che qualcuno l'aiuti a capire che cosa accade nella seduta, è la cosiddetta supervisione degli operatori che hanno la necessità, altrimenti non riuscirebbero a fare il loro lavoro a lungo, perché le situazioni di coinvolgimento sono tante. Non volevamo fare ovviamente un lavoro di questo tipo, di scrivere dei casi, abbiamo pensato di scrivere delle storie. Perché? Perché nel lavoro terapeutico, in analisi soprattutto, si raccontano delle storie. Il paziente viene e ti porta la sua storia, che magari è una storia che conosce in parte, e piano piano con l'analisi la storia emerge, anche quella più nascosta, più profonda. Noi abbiamo sentito quindi diverse persone, a un certo punto abbiamo sentito la necessità di raccontare le loro storie e ce le siamo raccontate. Giuliana mi ha raccontato per esempio il caso di una donna che è ferita, arriva nella stanza che noi chiamiamo del dolore e ci porta la sua sofferenza. Me lo ha raccontato, io questa paziente di Giuliana non l'ho mai conosciuta. Mi ha raccontato la sua storia e io l'ho presa e l'ho scritta mettendo dentro la mia visione, ma la mia visione anche mutuata da altre donne che stavo seguendo o che avevo seguito. Quindi il caso per esempio della che vi ho letto prima è la storia di una donna che ha avuto una violenza psicologica per lungo tempo, ma dentro questa storia di questa donna sono entrate tante altre situazioni che abbiamo conosciuto insieme. Ne è venuto fuori un personaggio che raccoglie storie, vissuti, sofferenze di tante altre. Ecco perché prima di tutto la persona che abbiamo seguito difficilmente si riconosce, perché dentro ci sono altre narrazioni. E così è stato un po' per tutte le storie. Scrivendole noi ce le siamo raccontate e riraccontate più volte. Adesso vi faccio sentire questa, che è un'altra storia di una delle problematiche che più ovviamente ci sconvolge di solito. A pochi anni, forse 7 o qualcuno di più, non importa. Buonanotte, mamma. Dormi bene, cuccio. Verrò a darti un bacio più tardi. Ricorda, quelle parole sono immesse. Le sente sottili come la sua voce che chiude la porta e la consegna la notte. Sua madre è tenera, quando le rimbocca le coperte, quando le lascia una carezza prima di andare, lei è ancora troppo piccola per sapere chi sono le vittime e dove stanno nascosti i carnefici. Non ti aspetti di incontrarli, non puoi aspettarteli da chi ti ama. Li pensi lontani, dentro le fiale, e invece li trovi che entrano dal cono di luce come una lama che taglia. Marina vede quella bambina rannicchiata nel suo lettino e le fa pena, ma non sa aiutarla. È paralizzata, prigioniera di lui che la tocca e la cerca dappertutto. Tutto è buio e lei non lo vede in volto, non lo riconosce, sa solo che ogni notte arriva con il rumore lieve dei passi che si avvicinano alla porta, e mentre la maniglia si muove, lei si ritira nel lembo estremo del suo letto, appiattita contro il muro. Mamma, c'è un uomo che viene ogni notte, e sussurra. Sono solo brutti sogni, amore. E lui torna a graffiare la porta quasi voglia di annunciarsi, poi si infila sotto le coperte e la accarezza come un padre che ti coccola di giorno e di notte fa uscire dalle mani l'uomo. Ho paura, mamma, l'uomo della notte non mi piace, dice un giorno sconfitta. Tranquilla, piccola, non ti vuole far male, ti vuole bene, risponde lei mentre spegne la luce. E ancora il buio, il rumore dei passi, il silenzio della paura e l'odore del lupo che arriva notte dopo notte. Marina ha un fremito. Ricorda d'un colpo il respiro corto ansimante dell'uomo e l'odore intenso di un sigaro appena spento nel posacenere del salotto, quello del padre. Questa è una storia che ci consegna appunto il dramma di una donna, vabbè, detto che sono tante le donne che ci possono trovare dentro questa storia, è una donna però che coltiva, che porta con sé la sofferenza, la ferita per anni. La storia da cui nasce questo racconto è la storia di una donna che arriva a 50 anni prima di riconoscere questa sofferenza, prima di potersi confrontare. Noi abbiamo centrato le storie nell'infanzia, nel senso che molte delle storie che sono raccontate sono radici lontane, no? Però quello che sappiamo anche oggi è che quasi tutte le donne che subiscono da tutte violenza sessuale, fisica, psicologica, no? Che tutto sommato la più diffusa, la meno riconoscibile, hanno sempre avuto l'infanzia una forma di trauma. Magari non hanno avuto un genitore abusante in questa situazione, ma c'è stato qualcosa nell'infanzia che non è andato come doveva andare. E sappiamo che la violenza purtroppo è un ciclo, nel senso che se non si interviene e non si fa qualcosa durante l'infanzia, il rischio che si ripeta, no? In maniera da vittime e da adulta è molto alto. Pino mi diceva prima che l'abbiamo scritto in questo modo, nel senso che io mi presento cominciava a mettere in mano la mia storia, poi quando finiva mi passavo i fogli, io cancellavo, scrivevo, rivedevo e ci rendevamo conto entrambi che ogni volta in questo passaggio ognuno di noi due aggiungeva qualcosa che non apparteneva più alla persona di partenza, ma apparteneva a qualcun altro. Ecco perché forse le 8 storie non sono 8 ma sono 32 o 40, perché ci sono appunto molte storie. Sì, un coinvolgimento professionale praticamente. E quello che volevo dire è una cosa di questo genere, visto che voi avete approfondito questo argomento che è frutto del vostro lavoro, quello che le donne subiscono e subiscono passivamente e insistono, beh, forse fra un po' intervengono in modo drastico, cercherò di fare. Poi ci sono anche delle reiterazioni finché poi si arriva al fatto, proprio all'uccisione del codice. Quindi voi tecnicamente penso che avete una statistica più o meno su questi casi delle persone che riescono a subire fino ad arrivare proprio a una conclusione drastica, oppure diciamo che sono casi un po' diversi. Grazie. Sì, ma la domanda reinterpretata potrebbe essere come fa una donna a subire per tutto questo tempo, al di là dei numeri delle statistiche. Sì, come fa una donna a subire? Che non le abbiamo, ma non, anche se per esempio su questo versante continuano a venire fuori dai dati, no? Che sono i dati però delle situazioni concluse purtroppo tragicamente. A fronte di questi dati emersi, che sono spaventosi, perché proprio qualche giorno fa ho visto il numero delle donne uccise nel 2015, è spaventoso. Ma al di là di questo, dietro queste situazioni ci sono una quantità di casi che non arrivano ad essere conosciuti da nessuno. Allora la domanda è: come fa effettivamente, come mai una donna resiste con un'idea, io credo, come lei mi pare accennasse, che la cosa possa cambiare, che possa riuscire un domani a cambiare un partner violento, un partner che la umilia, che la offende. Molto spesso c'è questa idea che è accompagnata poi ovviamente dalla vergogna di parlarne, dalla paura che non ci sia nessuno che ti ascolti, certo, anche questo, che nessuno ti creda, certo, anche questo. C'è un bellissimo film, no? Io cito sempre alle donne, sto sempre di vedere che io ti salverò, del magico Bergman, no? C'è proprio l'idea, no? Che la donna in qualche modo debba cambiare l'uomo, per cui ci sono donne che resistono molti anni con questa idea, no? Che siccome in parte dipende da loro il buon funzionamento della coppia, aspettano e sperano e mettono in atto tutta una serie di strategie che non sono per il proprio benessere, ma sono per il benessere dell'altro. Io sto pensando alle storie che conosco, sto pensando soprattutto alle storie che sono quelle più difficili, no? al cambiamento, che sono dove c'è un trattamento psicologico, no? E dove le donne camminano veramente sul filo di un rasoio, no? A lui dà fastidio che l'amica telefoni a casa, fanno in modo che l'amica non telefoni a casa. A lui dà fastidio che lei saluti gli amici per strada, lei evita tutte le strade dove sa che possono passare gli amici. A lui dà fastidio tutta una serie di cose, e le donne per anni costruiscono tutto un modo, pensano proprio un modello di vita, un modo di vivere fatto di evitamenti, fatti di situazioni per non incappare nell'ira di lui, nel fastidio di lui, e quindi passano moltissimo tempo a fare questa cosa e ad attribuirsi una capacità anche, no? Una sorta di viene da dire di onnipotenza purtroppo malata, sull'idea che facendo così lui possa cambiare. E il lavoro di terapia, che lo so benissimo, sappiamo tutti e due, è lento per questo, perché le donne faticano, no? A capire che è una situazione di violenza, che questo è il termine, non è amore, non è lui mi vuole tanto bene, lui mi controlla perché mi ama, si chiama violenza. È brutta come parola, ma questa è la sua realtà. Non possiamo pensare che un uomo che mi controlla 50 volte sul cellulare mi ami, no? Amore e libertà, diceva Osho, credo vanno d'accordo, e se la libertà non è coniugata all'amore come gli ali di un gabbiano, allora non è più amore, c'è una cosa che non funziona. Scusi, ma mi piace un attimo, perché è un attimo di positivo. Certo, se avete in testa un numero statistica di alcuni mariti, di vendicante, diventate. Allora, guarda, quello che ce ne stia più sempre, che bisognerebbe fare il telegiornale delle buone notizie, cioè anzi, che lo dico, non c'è nessuno, ma no? Perché sono convinta che se esiste il contagio negativo possa anche esistere il contagio positivo, no? Sia importante ringraziare, sorridere, dire grazie, prego, queste cose banali, non credo che andrebbero sottolineati, no? Gli uomini che lavorano in casa, che vanno a fare la spesa, che buttano le immondizie, che rispettano la libertà, che rispettano la libertà, una donna che va al cinema da sola, con le amiche, in vacanza da sola, con le amiche, ce ne sono. Io mi permetto però di aggiungere che non è che dobbiamo inventare, li dobbiamo educare, questo è, bisogna educare, quindi educare gli uomini ad essere uomini, no? Uomini buoni, sufficientemente buoni, direi, basterebbe il sufficientemente, però educare, non si può educare un uomo, si può educare un bambino che diventi un uomo. Questo credo che sia il fil rouge, no? che lega appunto la violenza al passato, a come sei stato aiutato a crescere, fatto crescere. Quindi è qui. E anche ad educare all'autonomia, no? Al fare, ad essere da soli, perché gli uomini, no, come diceva prima la signora, che uccidono, sono quelli che uccidono quando vengono lasciati. Quindi il fine dell'educazione dovrebbe essere quello di rendere una persona autonoma, indipendente, libera e quindi capace di stare con se stesso. Come si spiega l'atteggiamento della mamma di Maria? Sì, la mamma di Marina è la storia che ci diceva prima il dottor Maiolo, che rassicura la bambina che questa persona che la visita ogni notte le vuole bene. Vai, vai, se vuoi. Come si spiega? Difficile da spiegare. Non si riesce a spiegare. Non c'è un perché, se non quello del fatto che è una collusione tra due mondi molto spesso che produce violenza, una violenza così forte. Non è un caso a sé stante quello che ho detto, purtroppo no. Purtroppo questo fatto che ci sia una complicità nascosta, uno sa ma non dice nulla, purtroppo è forse l'elemento più terribile di tutta la violenza. Noi veniamo da qualche giorno da un altro momento di riflessione insieme con la polizia di Bolzano, con la comunità di Bolzano, dove abbiamo esaminato e ci stiamo prendendo carico appunto di quello che è un fenomeno molto diffuso, che è il bullismo, il cyberbullismo. E anche questa è una forma di violenza, ecco perché dicevo prima, dobbiamo fare qualche cosa per modificare modificare l'atteggiamento educativo, fare un progetto educativo diverso. Perché educare significa far crescere delle persone che diventeranno adulte, ma che prima sappiano, fin dal più presto possibile, fin da piccolissimi, sappiano vedere la violenza e anche non tacere di fronte alla violenza. Quindi la presenza di persone che vedono, anche per esempio nelle azioni di bullismo, e tacciono, è frequentissima. La presenza di persone che vedono e si compiacciono è frequentissima. Noi tutti siamo, a mio avviso, diventati una società che si compiace di vedere che due si facciano la guerra, si dicano parolacce. Siamo diventati dei guaieristi ormai, siamo attaccati al televisore, per esempio. Allora, questo lo dico non tanto per giustificare la madre di Marina, ma quanto perché fa parte ormai di un codice che stiamo respirando da parecchio tempo, purtroppo. E poi non dimentichiamo, prima la dottoressa Franchini l'ha già accennato, che studi dimostrano che i bambini che nella loro infanzia hanno assistito a papà o compagno di mamma che usa violenza o fisica o sessuale o psicologica, non dimentichiamoci la psicologica, questa continua mortificazione, umiliazione sui figli, sono molto più a rischio le bambine di diventare vittime. E la mamma di Marina sembra quasi, no, questa collusione vittimistica, e i maschietti di diventare autori, maltrattanti. Questo è dimostrato dal punto di vista della letteratura giuliana, della di sapere, chi prima lo diceva, dietro alcune storie di, ci sono anche degli episodi di violenza pregressa. Sì, l'altra cosa che bisogna aggiungere, rispondo alla signora, è che noi per tantissimi secoli, no, abbiamo fatto della famiglia un luogo sacro, per cui certe cose bisogna tenerle in famiglia, no? Quindi non devono uscire. Però queste situazioni, chi è stato qualche volta al tribunale di noi sa benissimo che purtroppo accadono, no? Che un certo tipo di male che copre, esatto. C'è molta fatica a riconoscere la violenza vissuta da una figlia, no? C'è una realtà e c'è uno schieramento a difesa della coppia piuttosto che del figlio, che è sempre una doppia violenza con il suo figlio. C'è un'altra domanda? Io appunto dicevo, come è possibile che l'amore di una madre che dovrebbe essere il massimo possa sopportare quello che succede in questa situazione, l'ultima che abbiamo sentito della storia. Non aiuta la bambina e lascia che il marito, l'uomo, possa andare avanti quello che fa. Com'è possibile? Allora, mi alzo così la vedo e lei mi vede. Non so perché mi siedo, insomma, sono sempre in piedi, ma... mi permetto di dire una cosa. Noi, rispetto alla maternità, e ne parla una che non è madre, ma si considera madre per tutti i bambini che hanno una persona nella sua vita, abbiamo un pregiudizio. Cioè, pensiamo che il fatto biologico sia sovrapponibile al fatto psichico. Non è così. Ci sono molte madri che hanno dato la luce a dei figli, ma che non sono state madri, e molte madri che non hanno avuto figli, che lo sono state molto di più. Perché? Perché avere un figlio presuppone il fatto di averlo anche in mente. È quello che mio marito dice sempre, è la preoccupazione. Cioè, è avere cura prima del figlio. E basta guardarsi in giro per capire che forse oggi abbiamo più fatica, no? Più difficoltà a prendersi cura dei figli. Non è casuale che la trascuratezza nei genitori italiani stia aumentando a dismisura. Io vengo da oggi pomeriggio da un incontro in una scuola d'infanzia e l'insegnante mi dice che ha una mamma con cui non sa bene come interagire, perché sta insegnando tutta una serie di parolacce pesanti al bambino con la scusa che così lui si deve difendere. No, quindi stiamo veramente attraversando un'epoca, l'indico educativa, anche estremamente confusiva. No? Allora, l'idea che le madri siano automaticamente capaci di prendersi cura di un figlio, mi permetto di dirle, non è così. Non c'è nulla come nella maternità di variegato, variabile, di colori, di arcobaleni, perché, ripeto, a fare un figlio significa intanto aver avuto una buona rielaborazione personale, cioè aver guardato la propria infanzia, aver fatto i conti con i propri genitori in qualche modo, e poi essere capaci di vedere il figlio per quello che è e non per quello che vorrei io, e averlo in mente anche quando non c'è. Ecco, alcune delle nostre madri che abbiamo raccontato sicuramente non erano molto attente. La cosa importante, la cosa incredibile, lo dico spesso, è che comunque, anche se passa poco, se quel poco si riesce a germogliare, quelle madri però, quelle bimbe che hanno avuto queste madri difficili, riescono ad essere diverse, solo che devono essere aiutate. Sì, a questo proposito, in effetti, è giusto che qualcuno ha toccato i numeri, di questo abbiamo dei numeri. L'anno scorso due realtà molto note, una è Terdesol, che si occupa molto di bambini, e un altro è il CISMAI, cioè il centro di aggregazione di tutte le associazioni in Italia che si occupano di violenza, hanno fatto una ricerca basata sulla analisi di dati dei servizi di 31 comuni italiani per sapere quanti e quali diciamo disturbi generati da azioni di violenza venivano presi in carico. Quindi è stata un'indagine fatta sull'emerso, cioè su casi che erano emersi, chiari, dei servizi, e i servizi sono servizi sociali, servizi neuropsichiatrici, servizi psicologici di questi 31 paesi, 31 comuni italiani. Il primo dato che è emerso è che ovviamente la maggior parte dei casi è che vengono seguiti dai servizi, pari al 52%, è di femmine e 48% di maschi. E poi l'altro dato incredibile è che venivano seguiti e vengono seguiti dai servizi nella maggior parte casi di trascuratezza. Trascuratezza materiale e trascuratezza affettiva. Che insieme poi alla violenza assistita, alla violenza psicologica, insomma costituiscono quasi l'80%. E a questo proposito vi leggo ancora un breve pezzo stavolta, di un altro racconto. Questo è il legame che mi ha unito a mia madre, mi ha reso simile. La sua paura è la mia paura, così come la solitudine. Ho dovuto io farle da madre, quando ancora non ero figlia. L'ho accontentata per bisogno. Mi serviva qualcuno che potesse vedermi come bambina e avesse un posto per me nei suoi pensieri. Invece ero io che dovevo salvarla da un marito ubriaco e violento. Mi prendeva, mi svegliava di notte, mi vestiva nel buio della stanza e mi portava a dormire dove capitava. Io non riuscivo a capire. Ma come si fa a comprendere quello che succede quando hai 5 anni, quando nessuno ti dice dove sei e dove stai andando? Era una bambina che aveva già smesso di piangere, ma anche di sorridere e di parlare. Ecco, questo per restare in tema con la trascuratezza. Bambini che diventano genitori dei loro genitori, che si fanno carico. Ma smettono di parlare. Chiaramente. Smettono di fare i bambini, sì, sono presi da fare da tutti o prendersi carico di tutti. Guarda che è abbastanza diffusa questa cosa. Pensate per esempio a tutti di genitori separati che sono spesso non in vita, purtroppo, perché non bisogna separarsi, ma bisognerebbe separarsi bene. Molto spesso questi bambini prendono le veci di uno o dell'altro genitore, oppure tendono a difendere di entrambi, no? Quindi entrano in un circolo vizioso in cui sicuramente smettono di fare i bambini, ma fanno gli adulti. Avete qualche domanda? La domanda che dovreste farci è come si fa a uscire da queste tragedie, o cosa possiamo fare noi in sala, che conosciamo colleghe, amiche, vicine di casa, dove intuiamo che c'è qualcosa che non va, no? Non so se qualcuno di voi è capitato. Come si aiuta una donna che ci è anche vicino, dove intuiamo che ci possa essere un disagio rispetto alla violenza in casa, anche se non ha nasi rotti o ferite? Non so se conoscete delle donne, non vanno mai bene, non vanno mai bene, si svalutano prima che l'altro te lo dica. Questa è una domanda difficile che hai fatto. Io pensavo che uno dei modi, non so se funziona, però è cominciare a togliere certi pregiudizi, no? Mi arrabbio sempre quando, non so, si legge l'ha uccisa perché voleva separarsi, no? Oppure l'ha uccisa perché voleva tanto bene, oppure raptus, no? Non usano ancora questo benedetto raptus, non esiste, l'ha uccisa perché non sa controllarsi, perché è un violento, perché non sa fermarsi, questa è la realtà, no? Cioè togliamo queste parole raptus, bene, amore, perché non hanno niente a che fare con queste relazioni, no? Questo è importante, di non confondere. sempre fatto perché lui è geloso, mi vuole bene. No, la gelosia non è sana, è qualcosa di insano. Mi sta vicino, non mi permette di andare in palestra e mi vuole bene. No, no, non è questo. Cioè, bisogna cominciare a smantellare questa cosa, che purtroppo è ancora molto presente. No? E poi forse quello che diceva Marina, anche accorgersi delle piccole cose, no? Cioè, le donne sono molto attente, per fortuna sono molto solidarie anche tra di loro su questo tema. Per cui se avete un'amica che vive una situazione, non so, la classica situazione è a cena, no? Che è tra amici e lui dice a lei davanti a tutti, sì, ma tanto lei fa schifo, no? Ha detto fa schifo, tavola fa schifo, non è capace di niente, tutti ridono, no? Ecco lì forse l'amica dovrebbe dire qualcosa, no? Si separa da sé. E queste cose purtroppo accadono con molta frequenza, no? Qualcuno si agita in maniera. Non le conosco, per fortuna. Per fortuna, sono contenta che non le conosco nessuna così, a meno del mio giro. La cosa strana è che accade tra le giovani. C'è tutta una fascia di età giovanile, purtroppo, che è abbastanza coinvolta. Sì, molti anni fa c'era una mostra che girava. Anche parlato di questo al di là della mostra e delle occasioni, che però questa mostra e questo tipo di intervento si intitolava Rompere il silenzio. È ancora, io credo, una frase valida da tenere presente, no? Rompere il silenzio che avvolge ogni forma di violenza, e ovviamente è a partire dalla violenza sulle donne, che si rimanda a quello che dicevo prima, alla complicità che genera appunto anche lo stare a guardare, sapere e non dire. Purtroppo è questo il punto, a mio avviso, più delicato, che, ripeto, ha a che fare anche con i processi educativi, quando noi riusciamo effettivamente a promuovere una cultura della solidarietà, la cultura del rispetto, ma soprattutto della partecipazione. Prego. Cioè, molto partecipe questa signora, io ho lavorato tanti anni nella scuola, i dubbi qualche volta mi venivano, ma voi non ce l'avete ancora, ci diceva niente. Purtroppo nessuno ci diceva allora di questo, nessuno ne parlava, ma io sono sicura che tanti bambini che io osservavo avevano già, sicuramente, perché questi problemi non si sono creati adesso, no. Ci sono sempre stati. Io osservavo tanti bambini, adesso nella testa me ne sono passati parecchi, e bisogna dire, e io dico, ma che cretina, che non ho mai detto niente, ma non era... La moderna la butta ancora, poi non c'eravate, adesso non ci diceva niente. Grazie. Sicuramente è un tema culturale. Certo, non c'è dubbio. Tutte queste forme di violenza sono sempre state. Non è che abbiamo inventato nulla. Anche se oggi è vero, c'è però una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione. Ma probabilmente non è ancora sufficiente, no? Non è ancora sufficiente, è per questo che noi insistiamo nel promuovere queste riflessioni, perché quanto più riusciamo a portarci dentro nel nostro modo di pensare, appunto, anche il dubbio, degli interrogativi, rispetto a quello che accade a fianco a noi, nelle nostre immediate vicinanze, senza per questo voler dire che ci dobbiamo trasformare in detective, assolutamente l'idea che voglio passare, no? Però attenzione, e secondo me ancora forza, ci vuole energia. sia di intervenire, di fare la nostra parte. Stimolare di più la gente che attualmente, dal momento che ci siete, è necessario che si possa utilizzare la vostra esperienza. Perché è difficile che una persona, magari un'amica nostra che gli diciamo, sai, ho avuto questo dubbio, è difficilissimo avere l'appoggio suo, cioè che a me sì, va bene, però indirizzare, dire, seguite questi medici che sono lì, che aspettano questo vostro problema e senz'altro se viene a risolvere lo faccio vedere senz'altro. Tra moglie e marito non mettere il dito. Questo detto, no? L'abbiamo sentito, no? Tra moglie e marito non mettere il dito. Sì. Ma questo riguarda non solo la relazione di coppia che magari andiamo a svelare, cioè ormai stiamo, dal mio punto di vista, non so se avete un'idea diversa, ma noi non interveniamo più in niente, perché domina il ma chi te lo fa fare? Questo è capito, no? Chi te lo fa fare di dire qualche cosa? Perché ormai è una tendenza comune, non, che ti porta a mantenere appunto a farti gli affari tuoi. Sono tanti, certamente quello che abbiamo messo in piedi da molti anni ormai è un servizio che è abbastanza conosciuto e che quindi riscuote, però non è quello il punto. La nostra intenzione è quella di fare prevenzione, non vorremmo intervenire, non vorremmo avere il essere entrati in scena quando le cose sono accadute, quando vengono a chiederci aiuto. Purtroppo capita spesso così. Lo sforzo che stiamo facendo è proprio quello invece di fare in modo che queste cose non arrivino. Egoisticamente, prego. Una parola positiva per gli operatori e le operatrici che fanno questo lavoro da tanti anni, per continuare a farlo con forza e efficacia. Cioè della serie come non portarsi a casa il dolore. Come si fa? Una parola di conforto. Tu cosa fai? Prego. Perché la violenza è contagiosa. Infatti noi abbiamo scritto per liberarcene, anche l'ho detto prima, no? Perché quando arrivo a casa dicevo, ma sai che anche oggi una donna, diciamo, ma tutte e tutte le ali. Poi quando succedeva lui, dicevo, vedi che era molto più comune, no? E allora per quello che abbiamo cominciato a scrivere probabilmente. Ma io credo sempre che le donne abbiano una marcia in più, assolutamente una marcia in più. E più si lavora nello star male, più secondo me bisognerebbe avere la consapevolezza di quello che ci fa star bene e prendercelo. Grazie moltissimo per prendercelo, cioè sentire il diritto di stare bene, di fare le cose che ci piacciono. No? Io vengo da una cultura profondamente cattolica, ma il piacere e il godimento era l'ultima roba a cui si doveva pensare. Questa era la mia. Prima il dolore, prima il dovere, si mangiava prima le schifezze, no? Questo era il concetto. E la roba buona, tanto dovevi guardare in giro se c'era qualcuno che la voleva e la dovevi dare, no? No, sta bene chi si prende cura di sé, si concede il diritto di stare bene, di prendersi le cose. Grazie. Prego, pure, che non so se serve. A me serve, quindi. Adesso è anche nella religione, però un grande parte è stato fatto. Se guardiamo la parte, si vuole. Tanto. È che adesso, come dicevate prima, la violenza è contagiosa. E questo concetto del prendersi cura di sé dovrebbe diventare virale, che già è una parola che adesso va di moda e tutto è virale. E credo che questo sia effettivamente una cosa molto complicata ma doverosa per tutti quelli che in qualche modo nell'educazione e nella prevenzione lavorano in questo senso, come operatrici della scuola, ex operatrici della scuola, come operatori che sul campo continuano a lavorare, credo che sia l'unica soluzione possibile. E l'altra cosa che volevo riprendere, come dicevi tu Pino prima, e che mi è piaciuta molto perché credo sia fondamentale, è proprio quella complicità femminile che permette qualche volta di individuare le situazioni a rischio e da donna a donna, da ragazza a ragazza soprattutto, trovare la forza di dire guarda che puoi andare anche lì, e quindi la complicità che diventa informazione. Io mi ricordo, appartenendo al gruppo che ha lavorato tanto tempo sulla, tanti anni sulla violenza assistita eccetera, quando pubblicammo quell'elenco di luoghi e di posti dove andare che distribuivano nelle scuole, quante volte mi sono sentita dire ah ma prof, adesso che so dove poter mandare la mia amica, ma forse non era la mia amica, questo è molto importante. Quindi questo tipo di lavoro che da ragazze a ragazze, questo passaparola, questa complicità, credo sia uno elemento che possa portare un po' di luce anche in questa situazione. E volevo fare una domanda anche: quanto ritenete che questa mania dei social network, questo mettere sempre tutto fuori, eccetera, questo sia, porti delle conseguenze anche in questo campo? Ormai è tutto espresso, è tutto. E un'altra cosa che, scusa, mi dico tante, ma ne sono molto evidente tante, quando dicevi prima facciamo fatica a intervenire, è vero, in tante situazioni, quanti non intervengono vedendo picchiare un disabile, quanti non, perché ripetono, perché questa società purtroppo ci fa vivere questo tipo di situazioni, e questo è anche un altro aspetto forse che dovremmo considerare. Sì, però quello che tu stai anche dicendo direttamente è che a questa complicità che può essere di aiuto, che i ragazzi si aiutino reciprocamente, suggerendo che cosa si può fare, beh, è qualcosa che va incoraggiata, ma che ritorna in capo in maniera assoluta e preponderante al progetto educativo. Cioè dobbiamo educare questo, se no non viene, no? Se no è troppo forte, come dici tu, anche condivido, la società che non include, la società che ti dice pensa agli affari tuoi ma che te ne frega, no? In cui siamo dentro tutti quanti, tutti noi, non possiamo dire che noi siamo fuori, che noi ce la riusciamo a tenerci fuori. Beviamo tutti i giorni della stessa bottiglia anche noi, no? Quindi è molto difficile. E allora è uno sforzo che va fatto a più mani, che è quello di cambiare il progetto educativo. E quindi questo mi sembrava superato. Però facevo un'altra domanda che adesso mi sfugge. Social network. Social network, che è una piazza collettiva, no? dove tutto finta, no? Dove tutto si mette in, sembra in comune, ha degli aspetti indubbiamente positivi, non è che sia tutto da demonizzare, però non so quanto questo effettivamente aiuti, no? Alle volte quello che è capitato a me è di vedere che vengono messi in piazza le cose negative e quindi che diventano motivo di offesa, di diffamazione, no? Penso appunto, ripeto, anche qualcosa che su cui abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, al cyberbullismo, che diventa una cosa, che sta diventando una cosa estremamente preoccupante, no? Dove le offese girano rapidamente e ti distruggono le persone, davvero. I casi di suicidio in età adolescenziale, sono nati adesso da questo fenomeno, quindi fai molta attenzione. E allora, ancora una volta, come si risolve? Qui ci sono gli amici della polizia, sanno bene che non è con la repressione che noi risolviamo le cose, ma quanto con un'educazione all'utilizzo di questi strumenti, ma che deve cominciare alla, non sto a dire come, prima dell'asilo, brava, al nido. Girava ieri in un social: educare oggi per non punire domani, una vignetta interessantissima, no? E non è una banalità, è quello che c'è sotto la prevenzione. La signora prima chiedeva: ma come fa quella mamma o quell'uomo maltrattante? Quell'uomo ha un padre, ha avuto un padre e ha avuto anche una madre. Quella vignetta l'ha scritta Pitagora, quella frase. Davvero? Quella frase. Educhiamo i bambini per non punire gli uomini, diceva Pitagora. Bene. I temi messi penso che siano stati parecchi. Personalmente sarei felicissima se, grazie a questa discussione e a queste riflessioni, guardiamo alla ricorrenza del 25 novembre con un'attenzione diversa e anche al nostro quotidiano e anche a noi stesse o a noi stessi in un modo diverso. Alla fine di questo libro, questa ve la do perché è una chicca, ci sono degli spunti di riflessione dove, faticosissimi, dove è una proposta di alcune domande da farci da sole o da soli con noi stessi rispetto alla nostra storia, dopo aver letto queste storie, e io l'ho trovato estremamente... estremamente impegnativo ma anche estremamente utile, perché le cose con facilità, no? Che si guadagnano con facilità rimangono anche poco. Ecco, io ringrazio gli autori, la dottoressa Franchini e il dottor Maiolo. Ringrazierei anche tutto questo pubblico folto per una serata di lunedì e su un tema così delicato, e ringrazio anche il fatto che li abbiamo potuti incontrare. Grazie.